in primo piano. Ritorniamo a pieno ritmo, le prime pagine concentrate sulle gabbie salariali e l'Afghanistan. E all'interno? All'interno però c'è una cosa che si collega a quanto poi affronterete nel corso della mattinata, perché sul Corriere della Sera il ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini dice che potrebbe pagare l'università per intero ai primi 1000 maturati, ai maturati eccellenti d'Italia, un'idea della Gelmini dal 2010, riferisce Giulio Benedetti al Corriere della Sera. Al momento chi ha ottenuto il punteggio massimo riceve 1000 euro, ma il ministro vorrebbe passare a un sostentamento integrale. Integrale, cioè dunque non solo limitato a un assegno il primo anno, ma per tutto il corso di studi fino alla laurea. Esattamente, lo Stato garantirebbe in questo modo l'intero corso di studi ai primi 1000 maturati d'Italia. Fa parte di una inchiesta sui maturati eccellenti che è oggi sul Corriere della Sera. Ma tornando invece alle prime pagine, dicevamo le gabbie salariali, restiamo un attimo sul Corriere. Il Corriere della Sera ha questo titolo: al sud la vita costa il 16,5% in meno. È naturalmente la rilevazione della Banca d'Italia che ha confermato il differenziale nella capacità di acquisto degli italiani tra le varie regioni. Due studi della Banca Centrale, le differenze con il Nord. La Lega chiede salari diversi ed è polemica, scrive il quotidiano di Via Solferino. Tremonti lavora a una banca per il Mezzogiorno con gli istituti di credito cooperativo, e questo è l'altro spunto. Se andiamo sul Sole 24 Ore, entrambi gli spunti sono affrontati con un trattamento distinto. Tremonti, al sud una banca con le banche di credito cooperativo, spiega infatti il Sole 24 Ore questa mattina in edicola che il ministro dell'economia sta accelerando sul progetto della Banca del Sud. Ricorderete, era uno dei temi di cui si era discusso per il rilancio appunto delle regioni meridionali. Dopo alcuni colloqui con il presidente della Federcasse, Alessandro Azzi, via 20 settembre, cioè il Ministero dell'Economia, ha annunciato ieri sera con una nota che la nuova banca al servizio del Mezzogiorno sarà essenzialmente basata sul sistema privato, e la discussione è in atto con il sistema delle banche di credito cooperativo. Qui naturalmente la discussione collega due temi ugualmente caldi, cioè la capacità di accesso al credito, di cui tanto si discute in queste settimane, e anche e soprattutto le questioni dello sviluppo del Mezzogiorno. E poi la conferma anche sul Sole 24 Ore in prima pagina: nel Mezzogiorno la vita costa il 16,5% in meno, questa la rilevazione di uno studio della Banca d'Italia. E quindi il ministro leghista Calderoli torna a chiedere in realtà, perché è una richiesta ricorrente della Lega, al sud gabbie salariali. Il Sole 24 Ore ha un'apertura, però un titolo, il titolo più importante di questa mattina, dedicato a un elemento non così in evidenza su altri giornali, quindi mi fa piacere segnalarvelo. Sulla ripresa, il freno materie prime, che cosa succede? Avrete sentito anche nel giornale radio, ci sono queste tensioni per l'aumento dei prezzi della benzina, ma la questione sul costo dell'energia, il costo del petrolio in particolare, e anche di altre materie prime, sta preoccupando in qualche modo chi spera, come tutti quanti, nella ripresa, nella capacità di ripresa dell'economia mondiale. Spiega il titolo del Sole 24 Ore: molte commodities industriali e agricole sono ai massimi dall'inizio dell'anno. In Italia riprende la corsa della benzina, proteste dei consumatori. L'Agenzia dell'Energia ha avvertito che la crescita è a rischio con il petrolio sopra i 70 dollari. E poi ancora dalla prima pagina del Sole 24 Ore, la riuscita di Bill Clinton nella sua missione in Corea del Nord. Bill Clinton convince Pyongyang, Obama invia l'ex presidente Kim Jong-il grazie alle giornaliste americane. Sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo nella parte alta un tema che troveremo poi su molte altre pagine, cioè le dichiarazioni di Barbara Berlusconi suo padre, presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, rilasciate appunto in questa intervista a Vanity Fair, con la dichiarazione: il politico non ha privato, mio padre sia equo con noi. Quindi due temi della privacy e politica, e della successione per quanto riguarda il patrimonio aziendale della famiglia. Torniamo su il Corriere della Sera per vedere quali altre notizie sono in evidenza. anche sul Corriere della Sera la liberazione la grazia per le due giornaliste americane occupa spazio in prima pagina. Bill Clinton in Corea del Nord salva le due reporter USA. E poi una segnalazione dalla prima pagina nella parte bassa del Corriere della Sera: pulivano i treni picchiati con i caschi, minacce e aggressioni per gli appalti, da ieri gli addetti sono sotto scorta. Dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica. Anche Repubblica sceglie di evidenziare la questione del differenziale di costo della vita, gabbie salariali e scontro. Al sud prezzi più bassi del 17%. Anche per Repubblica, naturalmente, o come si poteva prevedere, diciamo, dà ampio spazio anche alle dichiarazioni di Barbara Berlusconi. La figlia a Berlusconi, un politico non ha privato. Intervista di Barbara a Vanity Fair, poi a tarda sera si corregge. Con una foto, le questioni legate agli esteri: pioggia di razzi su Kabul, le tensioni in Afghanistan, la guerra in Afghanistan, nuovo attacco agli italiani. E poi da Repubblica una segnalazione in prima pagina di Costume: al mare in monolocale con i nonni. Come cambiano le vacanze? Lignano, laboratorio della villeggiatura low cost. Non è l'unico ragionamento sul costume che viene riportato sui quotidiani di oggi, lo vedremo magari nella parte successiva. La Stampa dà ampio spazio, così come L'Avvenire, all'Afghanistan. Offensiva Taliban su Kabul, pioggia di razzi contro la capitale afghana, nuova imboscata ai soldati italiani. Azione dimostrativa, spiega il titolo della Stampa, colpito il quartiere diplomatico. Vicino a Herat, i nostri bersaglieri catturano un ribelle. E poi ancora dalla prima pagina della Stampa, l'incidente capitato in Francia, morti tre alpinisti torinesi caduti in un crepaccio appunto nelle Alpi francesi. E poi anche la Stampa ricorda in prima pagina la questione delle gabbie salariali: al sud la vita costa meno, la Lega chiede gabbie salariali. L'Avvenire, così come la Stampa, dà spazio all'Afghanistan: Kabul, pioggia di razzi, imboscata agli italiani. I Taliban alzano il tiro, ora prendono di mira anche la capitale che da tempo per loro era inavvicinabile. 8 missili cadono vicino all'aeroporto e all'ambasciata, spiega sempre Avvenire, farà attacco ai nostri soldati, sparatoria, ma tutti illesi per fortuna. Con una grande foto, la questione energetica più legata alle dinamiche interne, alle dinamiche italiane sulla benzina. Tempo di esodo della benzina torna a correre, è la segnalazione dell'Avvenire. Cambiamo un pochino argomento con il titolo del giorno, che oggi sceglie di dare evidenza a questo problema della diffusione dell'alcol tra i minorenni. Ragazzini ubriachi da morire, allarme per un rave party etilico a Panarea, giovane in coma e due ricoveri a Milano. La notizia di Panarea ovviamente dà nuovo alimento al dibattito che si sta svolgendo in queste settimane sulla necessità di intervenire per vietare, come appunto ha fatto il Comune di Milano con apposite ordinanze, la vendita di alcol ai minori. E andiamo dalla stampa andiamo alla Padania, perché la Padania naturalmente dà ampio spazio, giornale della Lega Nord, alla questione del differenziale Nord-Sud. Deciso, il titolo della Padania, è tempo di gabbie salariali. Banca Italia dice: il Sud il costo della vita più basso del 16,5% per il rilancio del Mezzogiorno, debellare il malaffare. E Calderoli che dice: attenzione alle nostre proposte, per Cota è stata confermata così la ragione storica del sindacato padano e della Lega. Libero dedica la sua apertura, il suo titolo più importante, alle dichiarazioni di Barbara Berlusconi. Mi manda mamma, affari di famiglia, è l'argomento con cui si sormonta questo titolo. In una intervista, Barbara Berlusconi pizzica papà Silvio: un politico non ha privato. E sulla divisione del patrimonio avverte: se sarà equo e giusto, niente lotte tra figli. Dal Messaggero: al sud prezzi più bassi del 16% è il titolo più importante, ma poi una storia curiosa legata alla febbre da superenalotto, per il jackpot ho speso i soldi delle vacanze. Questa è la vicenda di uno scommettitore che ha deciso di puntare con tutte le sue forze sull'uscita del 6 e finora è rimasto deluso. Dalla prima pagina del Messaggero, Barbara Berlusconi, chi governa non può distinguere tra pubblico e privato. E poi l'incidente è capitato in Thailandia, si schianta un aereo in pista, muore il pilota, ferite due italiane. A questo stesso incidente, tra l'altro, dà ampio spazio con una foto in prima pagina del Secolo XIX, giornale di Genova, spiega appunto il titolo della foto: incidente aereo, una genovese ferita con la figlia. Quindi il legame locale ha convinto il Secolo XIX a dare più risalto con questa foto all'incidente thailandese. Restiamo un istante sul Messaggero per un'ultima segnalazione che troviamo anche su altre prime pagine dei giornali: ronde al via dall'8 agosto. Parliamo dei volontari per la sicurezza nelle città. Cosa succede l'8 di agosto più precisamente? Entrano in vigore le disposizioni di una legge nuova e quindi con queste potrà partire il meccanismo di attuazione delle ronde. Su questo ritorniamo un istante sul Sole 24 Ore, perché come spiega un servizio nelle pagine interne del Sole 24 Ore, l'8 di agosto ci sarà la pubblicazione del decreto di attuazione delle norme sulle ronde, sui volontari della sicurezza. Spetta però ai primi cittadini, quindi i sindaci, dovranno dire se e quando far partire le ronde nelle proprie città. Se sono d'accordo nell'utilizzare queste associazioni di volontari sulla sicurezza, stipuleranno delle convenzioni con le associazioni che si proporranno per svolgere le attività. Le verifiche personali sui soggetti che intendono partecipare alle ronde, riassume sempre il Sole 24 Ore, saranno fatte invece dalle prefetture. Quindi c'è una comprensibile attenzione al debutto da sabato per questa novità normativa, però appunto, come ricorda il Sole 24 Ore, novità che andrà poi riempita da una serie di provvedimenti che devono essere decisi dai sindaci mettendosi d'accordo con le singole associazioni. Proseguiamo con la nostra lettura dei giornali. L'Unità decide di dare ampio spazio alle dichiarazioni di Barbara Berlusconi, sul suo padre, il Presidente del Consiglio. Il titolo: padri e papi, anche la figlia Barbara accusa, un politico non può permettersi di distinguere pubblico e privato. Questa è la copertina dell'Unità. E il giornale dà invece spazio a una sua inchiesta sugli sprechi in Puglia. La sanità di Vendola, bruciati 220 milioni. L'ex governatore della Puglia Fitto lasciò un attivo di 9 milioni, ricorda polemicamente il titolo del giornale in prima pagina. Ora il deficit è di 211 milioni, potrebbe arrivare al miliardo. E sull'inchiesta di Bari spunta una doppia residenza: l'ex assessore tedesco otteneva rimborsi per spostamenti fantasma. Anche sul giornale, foto centrale in prima pagina per ricordare: sabato arrivano le nuove ronde, i componenti saranno disarmati, non iscritti ai partiti. Va detto che però, sfogliando i giornali, non sembra esserci un consenso unanime da parte di tutti i sindaci sull'utilizzo di queste ronde, a prescindere dall'appartenenza politica appunto dei primi cittadini. E poi a centro pagina, ancora sul giornale, è ufficiale: la vita al nord costa il 16% in più. Calderoli rilancia: ci vogliono le gabbie salariali. E poi la segnalazione che abbiamo visto anche sul Sole 24 Ore per la Banca del Sud: Tremonti, così sarà la Banca del Sud. Cambiamo decisamente argomento da queste vicende economiche, vedendo la prima pagina della Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport stila oggi una serie di pagelle per le squadre del prossimo campionato di Serie A. La Serie A, dopo 105 amichevoli e 402 gol, Juve da 8 anche senza Diego, 7 all'Inter. Per Chievo, Catania, Palermo, ok, ma la chiusura è quella che di cui più si discute in questi giorni, Milan all'ultimo posto, e infatti con un altro titolo si torna sulle questioni di mercato relative al Milan: trattenere Pirlo, Galliani ci prova con il sì di Berlusconi. Ci sono, vi dicevo, alcuni spunti di costume sui giornali di oggi, che ho trovato sui giornali di oggi. Uno è sulla Stampa: vita al self, dice un primo piano del quotidiano torinese, costretti a fare tutto da soli. Di cosa si tratta? Si tratta della diffusione delle macchine automatiche che in qualche modo semplificano la vita e nello stesso tempo ci invitano a fare, come dice appunto il titolo, il sommario dell'articolo della Stampa, il lavoro che prima facevano altri. Ci sono alcune foto con esempi di questo cambiamento: al supermercato scompaiono le cassiere, la nuova cassa è più rapida, gli impieghi però si riducono, una cassa automatica fa il lavoro di due cassiere e mezzo. Questa è la valutazione appunto della grande distribuzione. Per il pieno e per l'autolavaggio nessuno ti aiuta più, una volta tutti gli autolavaggi avevano addetti alla gestione dell'impianto, oggi come dal benzinaio l'automobilista si arrangia. La distribuzione del latte con macchine altrettanto automatiche, c'era una volta la latteria sotto casa. Il caffè ovviamente alla macchinetta anziché al bar, il casellante elettronico, quindi il telepass, in certi casi per evitare la coda, però è una benedizione. Col casellante elettronico, spiega però la foto della Stampa, ritirare il resto è un'impresa. E infine al telefono con le aziende, ma l'interlocutore è un computer. Se desidera informazioni, è capitato a tutti di noi, prema il tasto 1 per le promozioni, il tasto 2 e così via. Questo è il lavoro di Francesca Paci, che occupa oggi due pagine sulla Stampa, appunto dedicato alla vita al self, cioè una vita schiavi del fai da te, così come viene segnalata in breve nella prima pagina, anche nella prima pagina del quotidiano di Torino. E poi da Repubblica due segnalazioni invece, sempre l'una l'abbiamo vista già in prima: al mare in monolocale coi nonni, Lignano è la nuova frontiera low cost, con la crisi si torna all'antica, spiega Repubblica, si va in vacanza tutti assieme per risparmiare e i turisti aumentano, i ragazzi si divertono, gli adulti vanno allo stand agli stand della Simmental, dice, carne data in omaggio in vaschettine di plastica, quindi una ricerca di risparmio anche attraverso le promozioni. Nella pagina successiva a questa che vi ho descritto, che sta su Repubblica, un'inchiesta sul cambio di operatore telefonico. Cambio di operatore indietro tutta, i big della telefonia, spiega Repubblica, fanno melina, ci vogliono, continuano a volerci, anche settimane per liberare il cliente. Con una scheda che completa il lavoro di Alessandro Longo, i nodi non ancora sciolti nel cambio operatore vengono ricordati, tra l'altro, per i cellulari appunto i tempi non certi, la perdita di parte del credito residuo per l'utente da 1 euro a 1,60 euro, e poi le proposte con cui l'operatore abbandonato, per dir così, l'operatore abbandonato cerca di trattenere il cliente. E con questa segnalazione da Repubblica concludiamo la nostra rassegna stampa di questa mattina. Ancora la parola a Irene Zerbini.